ferro e tu per le melodie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio che inghiranda i crini degli alti cherubini. Perdona se dicendo io corro il rischio di buscar qualche vecchio. Oh,